E benvenute e benvenuti anche questa sera all'ascolto di Zardins Magnetics, appunto trasmissione autogestita che va in onda ogni giovedì in diretta dalle 20 alle 21.30 circa dai microfoni di Onde Furlane, che è l'emittente di Udine che ci ospita. Allora, stasera anche noi dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e del Friuli aderiamo in un certo senso con i nostri mezzi, insomma, all'appello che gli studenti e le studentesse dell'Università di Bir Zeit in Cisgiordania, appello rilanciato dai giovani palestinesi d'Italia, hanno lanciato per una mobilitazione per la Palestina dal 29 novembre fino al 7 dicembre. Appunto, studentesse e studenti invitano a vari tipi di mobilitazione in questa settimana per la Palestina. Noi diciamo proviamo da questi microfoni così a far contro, diciamo, ai media di regime, perché vanno proprio chiamati così, i quali continuamente bombardano, insomma, le coscienze con una modalità di dare le notizie propagandistica filosionista veramente aberrante, e appunto con delle modalità che vanno anche, sono mistificatorie, ma vanno anche contro, diciamo, proprio l'umanità, cioè il senso del consorzio umano. Allora, specificamente una cosa che colpisce in questi ultimi giorni, cioè da quando ci sono, diciamo, i momenti di tregua e dei combattimenti, dei bombardamenti da parte dello Stato di Israele sulla striscia, da quando c'è questa tregua, in quanto c'è lo scambio di prigionieri, diciamo, cioè vengono rilasciati degli ostaggi da parte di Hamas e vengono rilasciati dei prigionieri dalle carceri israeliane, e colpisce questa parlare solo ed unicamente, tranne rarissimi casi di giornalisti che accennano, ma sono veramente rari, di parlare solo ed esclusivamente degli ostaggi israeliani in toni chiaramente come se fossero delle vittime sacrificali, in toni pietistici all'estrema potenza, e enfatizzando molto il discorso dei bambini, dei fragili, degli anziani, dei bambini, dei fragili, delle persone ammalate, delle persone deboli che sono state costrette a vivere 40 giorni o quello che è nelle segrete nei sotterranei di Gaza. E quindi enfatizzando questo aspetto, e invece così non parlando assolutamente, anzi ignorando in maniera appunto provocatoria, per come la vedo io, i prigionieri appunto che sono stati sono stati liberati, insomma, dalle carceri israeliane. Ricordiamo che si tratta in prevalenza di donne e di bambini, perché appunto bambini nel senso di proprio ragazzini bambini, perché in Israele esiste la possibilità di arrestare e detenere anche i bambini nelle carceri, e non negli istituti minorili, nelle carceri, senza nessun tipo di incriminazione, cioè non è necessaria un'incriminazione. Quindi ci sono queste detenzioni amministrative, tra l'altro, che poi appunto anche abbiamo ereditato anche noi con la detenzione amministrativa, questo istituto che poi ha dato origine ai campi di concentramento per migranti. Allora, ci sono queste detenzioni amministrative che colpiscono persone di giovanissima età, e poi c'è questo discorso delle tantissime donne anche che sono nelle carceri e che subiscono anche loro questa detenzione arbitraria. Allora, tutti i prigionieri nelle carceri israeliane, i prigionieri palestinesi subiscono cose atroci, Addirittura l'ONU, poi parleremo anche dell'ONU stasera, ma comunque l'ONU fa presente che ci sono circa 1100 detenuti, dati aggiornati a pochi mesi fa, 1100 detenuti senza accusa o processo nelle carceri israeliane, e parliamo di detenuti palestinesi. Allora, inoltre bisogna ricordare che contro le donne sono all'ordine del giorno perquisizioni invasive, abusi sessuali e minacce. Poi va detto che c'è un accanimento sui prigionieri e sulle prigioniere palestinesi relativamente anche alla politica di negligenza medica, confinamento in celle sovraffollate, privazione del sonno e del cibo, quindi forme di tortura, e gravi percosse durante la custodia militare israeliana. Però stasera io volevo parlare specificamente della storia di una donna che è stata liberata in questi giorni. Conosciamo la sua storia grazie a Nicoletta Poidimani, che ha annunciato questa liberazione nel suo blog. E Nicoletta appunto dice: ma finalmente libera, e fa seguire a questa affermazione un punto di domanda, perché appunto questa donna è stata liberata, era detenuta dal 2015, quindi 8 anni, ed ha potuto ritornare nella sua casa da suo figlio, ma appunto è stata liberata, ma si trova poi, come tutti gli altri, in questa che è stata definita la più grande prigione a cielo aperto, e inoltre anche spezzata in due, insomma dilaniata dal belligerante sionista. Ma questa storia è interessante, va raccontata, perché è anche paradigmatica. Io l'ho ricavata, la storia più in dettaglio, da un articolo che è del 2021, un articolo di Mahmoud Usruf, che racconta proprio come questa donna, che si chiama Isra Yabis, è passata in un istante da vittima criminale. Praticamente Isra Yabis, 37 anni, nel 2015, era in viaggio diretta verso casa sua a Gerusalemme. Era il 10 ottobre del 2015 e doveva, il giorno dopo avrebbe dovuto presentare un suo progetto di ricerca per il modulo di educazione speciale. Si stava dirigendo al checkpoint militare di Al-Zahim a Gerusalemme, perché come sapete questi checkpoint militari, il territorio è disseminato di questi checkpoint militari che obbligano le persone palestinesi a attese, corvée terribili. Allora la Isra Yabis si dirige con la sua auto verso questo checkpoint. All'improvviso la sua auto prende fuoco a causa di un guasto tecnico a circa 500 metri dal checkpoint, e i soldati israeliani pensano che chiaramente nel loro immaginario ogni palestinese è un kamikaze, quindi pensano che Isra fosse un potenziale pericolo e puntano le armi contro di lei, che nel frattempo aveva perso il controllo dell'auto, insomma era avvolta dalle fiamme. E praticamente quando insomma la donna si esce dall'auto e chiede aiuto, cerca aiuto, le viene puntato un fucile e una guardia israeliana le intima di lasciare cadere il coltello. Anche questa è una frase che molti prigionieri delle carceri israeliane dicono, di venire sempre accusati dai soldati israeliani di avere, cioè comunque viene sempre detto loro di lasciare cadere il coltello, è come una specie di frase, come un mantra insomma militarista, diciamo, dell'occupante contro i nativi. E di fronte a questa intimazione appunto Isra si stese sull'asfalto col corpo in fiamme per 15 minuti aspettando la pietà del soldato o la morte imminente, e alla fine viene arrestata. I militari israeliani la accusano di tentato omicidio, senza però presentare alcuna prova, come si diceva, quindi lei viene detenuta in maniera arbitraria. E questo episodio si svolge durante la cosiddetta intifada di Gerusalemme, scoppiata nel 2014 sulla scia dell'indignazione tra i palestinesi dovuta alle provocazioni israeliane alla moschea di Al-Aqsa. La rivolta dell'intifada di Gerusalemme continua fino alla seconda metà del 2015. E, allora, Isra, prima di essere liberata in questi giorni, era nella prigione di Damon a nord di Israele, insieme ad altre 10 donne palestinesi e 35 detenute. La Isra ha ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo, 8 delle sue dita non esistono più a causa delle gravi ustioni riportate nell'incidente e ha bisogno di cure mediche di emergenza, però queste cure mediche non le sono mai state prestate. Nasrin Abu Kmail, una detenuta appena rilasciata, anche lei, che è stata con Isra nella stessa cella del carcere di Damon, ha descritto la situazione di Isra come il caso più difficile dietro le sbarre. Non riesce a mangiare e respirare normalmente e soffre di infiammazioni acute a causa delle sue ferite. Nonostante questo, come si diceva, l'amministrazione penitenziaria non fornisce le adeguate cure mediche necessarie per il trauma che ha subito e il servizio penitenziario israeliano lascia deliberatamente che Isra continui a soffrire. Questa insomma non è una novità rispetto ai servizi sanitari dei penitenziari, purtroppo non solo in Israele. E, ogni volta che Isra richiedeva assistenza medica, sia cure mediche di base che interventi di chirurgia plastica, l'amministrazione carceraria rispondeva dicendo che è lei stessa che si è fatta del male da sola, racconta Anar al-Dek, una detenuta palestinese rilasciata su cauzione lo scorso settembre. Allora, Isra apparve in tribunale nel gennaio 2018 per presentare appello contro la sua sentenza di condanna. Quando le viene chiesto delle sue condizioni durante l'udienza, Isra alzò quello che resta delle sue mani davanti alla corte, dicendo: esiste un dolore più grande di questo? Vabbè, insomma, l'articolo poi continua dicendo insomma anche di tutte le del trauma psicologico molto forte che questa giovane donna ha subito, e dice che appunto le sue compagne di detenzione ricordano che i risvegli che gridando al fuoco, insomma, e tutte queste cose terribili. Ecco, esiste, c'è nel blog della Nicoletta Poidimani, c'è una foto del ritorno a casa appunto di Isra, una bella foto con suo figlio, e va ricordato che era stata minacciata, la sua famiglia è stata minacciata dalla polizia israeliana di non fornire assolutamente nessuna notizia sul rilascio di Isra ai giornalisti. E bisogna ricordare anche che questo non è un caso isolato, chiaramente non vogliono che si parli di queste liberazioni, vogliono che se ne parli il meno possibile, e da cui anche questa mistificazione dei media mainstream occidentali in generale. E addirittura hanno minacciato insomma le autorità israeliane, i palestinesi, di non festeggiare, cioè hanno proibito i festeggiamenti per il ritorno a casa dei prigionieri rilasciati. Naturalmente queste proibizioni vengono stracciate e giustamente i palestinesi festeggiano e sì, rendono onore insomma a tutte le persone che finalmente vengono liberate dalle carceri. hazard. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters and license to kill. Now with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your eyes to a freedom of thought. From the rich man's cask, this revolution won't be the last. Viva the revolution. Viva the revolution. Buonasera, stiamo ascoltando Viva la Revolution dei Green Bandits, ben inglese. State Police ed era da Diego Cristanzo, mentre durante gli interventi di prima abbiamo ascoltato un del disco de l'autre côté della band della Fraction, e la prima canzone che abbiamo ascoltato proprio subito dopo la sigla erano i Violent City, sempre da Parigi, brano Life Attack. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. That's in the streets and the carnival. Celebrate the victory now. Drink the wine from the rich man's cask. This revolution won't be the last. Buonasera a tutte e tutti, anche da parte mia ci ha lasciato Shane McGowan dei Pogues e i suoi denti marci, le sue orecchie a sventola, e lo salutiamo così con questa canzone. Dirty old town. thought he went. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture face. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Con Iliad Bis. Ecco, un intervento questa sera dove ci collegheremo di nuovo alla questione del guerra nella striscia di Gaza, però un altro punto di vista, ecco, così vi segnalo questo articolo, intervista a una storica antropologa che si chiama Stéphanie Lat Abdallah, lo trovate su un blog che si chiama Reporter, in francese, Fattorie cooperative, in Palestina una nuova forma di resistenza. Ecco, allora, è un intervento di questa, come ho detto, storica, ricercatrice, pubblicato tra l'altro una ricerca sul esperienze di carcerazione nei territori occupati palestinesi. E credo, insomma, opera in Francia, in qualche istituzione, ecco, di ricerca francese, dove, ecco, viene caratterizzata questa terra, questi territori, non soltanto come luogo, appunto, di sofferenza e di vessazioni di tutti i generi, prigionia, torture, ammazzamenti, perdite di legami importanti, insomma, e tutto il resto, insomma, tutto questo, non solo in questa forma, diciamo, di torti subiti, ma come una situazione, un luogo, volente o nolente, di creatività sociale, una società creativa. Alla fine, appunto, siamo per ricorrere a una metafora, nella stessa situazione di chi è murato, appunto, in una stanza con quattro muri, senza finestre, senza porta, senza finestre, chiuso dentro, cosa fa? Probabilmente si mette a pensare, alla fine proverà a bussare piano piano su varie zone dei muri, e troverà dove il suono un po' più, diciamo, fino, e probabilmente lì comincerà a battere, perché magari lì il muro è un po' più sottile. Sono strategie così di sopravvivenza, anche modi di saltare fuori da una situazione che sono anche uno slancio, insomma, che portano a idee nuove, anche a luoghi diversi, insomma, a chiudere gli occhi, ma non per sognare, ma per immaginare come saltare fuori da una situazione. Ecco, allora, cioè lo sforzo, appunto, è quello di ricostruire una società libero sia dall'occupazione sionista sia anche dalla dipendenza degli aiuti internazionali. Ultimamente, naturalmente, negli ultimi due mesi questa vicenda è un po' andata in secondo piano con la, insomma, con la pressoché totale distruzione delle, insomma, degli, degli, come si chiamano, delle, sì, degli insediamenti, no, della striscia di Gaza. Ma comunque, da, partendo ancora dal prima intifada, cioè tra il 1987 e il 1993, questi, il discorso del riconquista del terreno coltivabile è sempre stato presente. Allora, appunto all'epoca della prima intifada, i terreni coltivabili convertiti in orti comunitari venivano chiamati i giardini della vittoria. Negli ultimi 16-17 anni in Palestina, se non sbaglio, ci sono stati 6 conflitti, quindi molti, insomma, molte perdite, molte disgrazie, molte, sì, morti irreversibili. È, diciamo, emersa questa forma di ecologia di sussistenza, che però è anche un'ecologia di resistenza e una ecologia di esistenza, cioè dove il ritorno alla terra è anche parte della lotta, cioè accanto alla lotta, quella armata che è stata fatta, che anche quella ha subito sconfitte e ha portato invece a dei risultati, ma si porta avanti, indipendentemente appunto da questo, ma parallelamente, anche questa lotta qui, che appunto è un'altra forma dove i palestinesi cercano di andare, di camminare insieme anche al loro ambiente, alla terra che calpestano, all'aria che respirano, al mare che bagna la costa della Palestina. Per esempio, gli ulivi dei palestinesi, si sa, insomma, ancora oggi, diciamo, vengono vandalizzati sia dai coloni e sia dalle autorità, insomma, dello Stato sionista. E, per, insomma, questo ritorno all'agricoltura, io adesso, scusate, vado anche molto veloce, vi invito a leggere l'articolo, che non è un'intervista, abbastanza breve, ecco, però dà degli spunti, secondo me, ecco. Io non sono neanche un esperto di, avendoci a che fare, ma comunque non sono un esperto, non posso approfondire, ecco, non è il mio campo questo qua, di quello della coltivazione di sussistenza. Ecco, per caratterizzare queste esperienze dei palestinesi, la Stephanie Abdallah parla appunto di questa ecologia esistenziale, perché è un ritorno all'agricoltura parsimoniosa, radicata nelle conoscenze ancestrali e nell'agricoltura locale e contadina, e nella balia, cioè basata sulle precipitazioni, ecco, e quindi è slegata dall'irrigazione artificiale e dalle, naturalmente, dai fertilizzanti e dai trattamenti antiparassitari, eccetera eccetera, perché sono quelle forme di colonizzazione da parte dello Stato sionista che impone, anche qui volente o nolente, per accedere a un'agricoltura di tipo, appunto, agroindustriale, occorre riferirsi agli importatori, che sono israeliani, se appunto con le sementi e i fertilizzanti, e quindi di conseguenza fare degli impianti di irrigazione artificiale, si compra tutto il pacchetto, ecco, non è che si può solo seminare quelle sementi, ecco. Quindi gioco forza, si è costretti, come dicevo prima, è una forma di tenersi sì, di sussistenza, no? Perché appunto bisogna andare a cercare quelle sementi antiche resistenti alla siccità che permettono appunto di produrre il necessario anche col clima di quei territori. Per concludere, praticamente la studiosa si rifà anche a Donna Haraway e dice che appunto tra terra, cioè tra ambiente e palestinesi si ha una relazione intima, nel senso che la paura di essere cancellati, la paura di esistere e anche la paura di sopravvivere, la necessità anche di sopravvivere, sono le stesse, no? Sia per l'ambiente sia per i palestinesi che ci abitano, e quindi appunto si può parlare di ecologia esistenziale, cioè tutto uno slancio incredibile a dirsi, ma anche un entusiasmo, e sono appunto forme di utopie che cercano di vivere in mezzo alla distopia dello Stato e del sistema di vita neoliberista israeliano, di questa appunto delle autorità appunto israeliane, di forma più avanzata insomma di spersonalizzazione, di alienazione e artificialità della vita che ci siano su questo emisfero, ecco. Per veramente concludere, tornando anche al sognare, cioè al tenere gli occhi chiusi, c'era anche un intervento del filosofo Agamben. Lui dice: nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Altem si conserva una testa in marmo che secondo la tradizione rappresenta un'Erinni addormentata. Gli occhi chiusi, i ciuffi dei capelli scarmigliati sulla fronte e la guancia, le labbra appena dischiuse, il volto della furia, se di una furia si tratta, sia essa Aletto, Megera o Tisifone, riposa quieto su un cuscino di buio marmo, come se sognasse. Una furia che invece di gemere e urlare, scuotendo la chioma serpentina, chiude gli occhi e sogna, smentisce se stessa. Eppure, proprio soltanto il sogno o il sonno di una furia assomiglia al pensiero. Il pensiero non è soltanto contemplazione, è innanzitutto furore. Si dà pensiero, si dà contemplazione solo se prima vi è stato furore. Se guardando l'abominio degli umani e del mondo, la mente, diceva Bruno, discesa nella parte più inferna, si sente lacerare e sbranare. E solo se nel nostro eroico furore riusciamo a chiudere gli occhi e a sognare, si ha vera quiete, si ha visione e teoria. I nostri sogni non sono allora fantasie a occhi aperti, che sappiamo ingannevoli e vane, ma verità a cui, anche se con gli occhi chiusi, non possiamo non credere, perché abbiamo prima visto la vendetta e l'errore. Il pensiero è questo acquietarsi del furore, è un Erinni che sogna. Sì, allora in questa terza parte, diciamo, degli interventi parlati, per chi ha ricevuto così l'anteprima, diciamo, abbiamo utilizzato questo slogan Patriarcato e Capitale Alleanza Criminale per parlare di alcuni fatti che sono successi in Congo. E sono stati denunciati, insomma, alcuni stupri che sono stati denunciati da delle donne in Congo. E si tratta appunto di, intanto eravamo tra il 2018 e il 2020, e praticamente nell'ambito di un programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le cure dell'Ebola. E c'è stato questo fatto, insomma, di funzionari incaricati di portare avanti questo programma che hanno usato violenza su un centinaio di donne, le quali poi hanno denunciato, insomma, questi stupri, e alle quali è stato proposto dall'ONU un risarcimento di $250 a testa. E vabbè, l'ONU praticamente ha fatto un conteggio dicendo che in quel paese con $250 si vive circa 4 mesi. E vabbè, alcuni giornali hanno dato questa notizia, insomma, il Fatto Quotidiano, La Stampa, vabbè, un po' di giornali anche, appunto, così mainstream hanno dato questa notizia, enfatizzando il discorso soprattutto il discorso del risarcimento, cioè del risarcimento scandaloso, nel senso che una miseria. E tra l'altro, diciamo, la persona che ha ascoltato queste donne, che ha stilato il rapporto su questi stupri, è una direttrice dell'OMS per la prevenzione e la risposta allo sfruttamento, abuso e molestie sessuali, che si chiama Gamevage, scusate la pronuncia, la quale appunto ha dato inizio a questa indagine perché ha incontrato una donna che era stata vittima di stupro, la quale aveva partorito un bambino con delle problematiche, malformazioni gravi, insomma, che necessitavano di cure mediche particolari, perciò da qui è partito un po' tutto. E questa direttrice, lei stessa, insomma, ha evidenziato che lei stessa guadagna $20 circa in più di questa cifra di $250 al giorno. per svolgere il suo lavoro. Allora, su questa faccenda molto odiosa, insomma, c'è stato un dialogo, non proprio un'intervista, un dialogo direi, su Radio Blackout tra una conduttrice e una antropologa e psicoterapeuta che si chiama Simona Tagliani, che lavora all'Università di Torino, e la quale insomma ha sviscerato un sacco di questioni e ha, secondo me, insomma, ha espresso un punto di vista interessante, anche da approfondire, magari sul quale si può ragionare ancora, perché intanto lei un po' ha messo da parte questa roba di risarcimento, nel senso che dice sì, ok, il risarcimento è una roba abominevole, vergognosa, però momento, ci sono cose, non fermiamoci a quella roba lì, ci sono cose strutturali, endemiche, radicate in questo tipo di organizzazioni, insomma, umanitarie, cosiddette internazionali, cooperazione internazionale, eccetera. Quindi ha messo il dito sulla piaga della cooperazione internazionale e dei rapporti di potere colonialista che vi sono sottesi. Poi ha evidenziato il ruolo della sessualità all'interno del sistema delle organizzazioni internazionali. Appunto, questo sistema, dice Simona Tagliani, contempla rapporti di dominio e di violenza endemica, e il discorso della sessualità è centrale in questi rapporti di dominio e violenza endemica. E poi, appunto, questa ricercatrice, insomma, ha così espresso questa sua convinzione, fondata comunque, visto che da quello che si è capito ha collaborato per 25 anni con organizzazioni internazionali di questo tipo. Dice che questo sistema prevede che l'integrazione dei più vulnerabili, dei soggetti più vulnerabili, passi attraverso l'accettazione di porzioni di corruzione all'interno del sistema stesso. Quindi, per in qualche maniera riuscire, diciamo, a emanciparsi da una situazione di vulnerabilità estrema, di povertà estrema, come può essere appunto nei paesi africani dove queste organizzazioni internazionali impazzano, e le popolazioni sono chiamate implicitamente e strutturalmente ad accettare la loro marcescenza, insomma la loro corruzione, la loro accettazione di un sistema, del sistema nemico, in pratica, poi che poi è il sistema capitalista. E appunto in questo contributo poi viene evidenziata anche la complicità degli espatriati di tutte le nazionalità. C'è un po' in Italia, poi c'è questo mito, no, degli expat, delle persone che qui non sono comprese, che hanno studiato tanto, sono tanto brave, hanno tante competenze e però non vengono valorizzate qua in Italia, quindi devono espatriare, appunto, per andare in giro per il mondo a far fortuna. Allora, invece, Simona Tagliani dà una mazzolata, diciamo, agli expat e dice che questi espatriati di cultura, insomma, che hanno chiaramente una cultura alta, di tutte le nazionalità, vanno a lavorare per la cooperazione internazionale, ad esempio, o per questi enti, queste agenzie, insomma, internazionali, e sono complici del sistema, perché lei dice lo fanno per soldi. Ricordiamo che diciamo in posizioni abbastanza dirigenziali si arriva a 20.000 euro o dollari al mese, che in paesi ad esempio come il Congo significano, quei soldi lì corrispondono praticamente al salario annuale di una famiglia di 10 persone, quindi è una roba veramente che fa schifo, molto schifo. Quindi questi espatriati vanno a fare le loro ricerche umanitarie, lo fanno per soldi e portano avanti quel sistema lì perché conoscono quali sono le dinamiche e non possono dire che non sanno che le cose funzionano in quella maniera lì. E vabbè, poi in questa conversazione tra questa compagna di Blackout, di Radio Blackout, e la e questa Simona Taliani antropologa, si sviluppa anche tutto un ragionamento sul vittimismo, cioè sulla, sul rifiuto del vittimismo, di vedere anche queste donne, questo centinaio di donne congolesi che hanno denunciato gli stupri, rifiutare di vederle come vittime, no? Perché vederle come vittime è una, un ulteriore, diciamo, spossessamento, insomma, delle loro capacità di autodeterminarsi, e anche una, un ulteriore loro indebolimento. Ma questo vediamolo un attimo dopo. E, altre cose interessanti sono che ci dice questa Simona Taliani, dice ad esempio che a lei risulta che tutte le persone, parliamo dei dirigenti, che all'epoca di questo, di questi fatti 2018-2020 erano, avevano ruolo di responsabilità dirigenziale, sono ancora al loro posto, e nello specifico c'è un tal Ryan che è il direttore dell'emergenza, e anche lui è sempre allo stesso posto. Quindi che cosa ha fatto l'OMS? Ha preso questi medici, perché poi questi stupratori erano dei medici, ha preso questi medici e ha addossato, diciamo, la responsabilità individualmente a questi soggetti e non al sistema, che invece appunto è strutturalmente così. Allora, dunque, ci dice appunto la Simona Taliani dalla sua esperienza, dice: queste organizzazioni lavorano riproducendo una logica capitalistica che allarga la forbice sociale delle disuguaglianze, e l'esempio di la disparità tra una paga di un appunto esperto che viene straniero, che si inserisce in questi paesi, e la... la paga media, insomma, di una persona locale che lavora anche per queste organizzazioni è incommensurabile. E, bon, appunto, quindi questa disparità tra esperti stranieri e esperti e anche esperti locali. E allora ci dice appunto: il sistema di ONU e OMS, ma anche di, in generale delle, della cooperazione internazionale, si basa su due aspetti: un forte riconoscimento internazionale e fondi economici di sostegno a tutto spiano. E lei dice questi due aspetti fanno sì che nessuno abbia interesse a denunciare le storpiature e le perversioni del sistema. Paradossalmente nemmeno la popolazione locale, che viene colonizzata da questo sistema e presa comunque per fame, diciamo, presa per necessità, ma colonizzata in una maniera pervasiva. Quindi lei dice: queste donne che hanno subito gli stupri, hanno denunciato e si sono viste, dopo la denuncia, diciamo, questa ulteriore umiliazione dei 250 euro di risarcimento, e molto probabilmente vengono dimenticate anche nel contesto locale, quindi sono sole, si trovano in una posizione molto scomoda, perché hanno, diciamo, svelato le distorsioni del sistema internazionale, diciamo, in cui erano inserite, anche se in un ruolo dal basso, insomma, però hanno anche rotto, lei dice, fa l'esempio, magari queste donne possono far parte di chiese locali, di comunità locali, che nel momento in cui loro denunciano vengono a sapere che sono state stuprate, che i figli che nascono sono magari appunto esito di questi stupri, e quindi c'è uno stigma sociale, no? Quindi e inoltre, denunciando, rischiano anche di avere meno, cioè rischiano anche delle rappresaglie, diciamo, da parte di queste organizzazioni internazionali, che magari tolgono fondi, e infatti lo fanno, perché la maggior parte dei fondi, anche questo è interessante, va a foraggiare gli expatriati e i vari dirigenti e funzionari dal più alto al più piccolo di queste organizzazioni, piuttosto che dare aiuti effettivi alle popolazioni locali. Allora, e poi ci dice altre cose interessanti, dice: i diretti responsabili di questi stupri non erano medici congolesi, erano medici stranieri, magari anche africani, esperti, diciamo, che devono portare queste loro esperienze, queste competenze ed esperienze nel paese nel quale, il Congo, non ci sono. Allora, lei dice, la cosa spinosa in questa vicenda è che è il ruolo della donna congolese nella relazione con l'uomo di potere bianco, anche se questo uomo non è bianco, però è l'uomo bianco, nel senso che è il bianco che arriva. Appunto, è il bianco che arriva con il suo carico di riconoscimenti istituzionali, titoli accademici, sicurezza economica. È il bianco come figura coloniale, al di là del colore della pelle, come soggetto dominatore. E questo è tutto ciò, questo soggetto dominatore viene portato appunto attraverso queste organizzazioni che si presentano come salvatrici, come benefattrici di un'umanità, diciamo, in stato di povertà. Ecco, e insomma, sì, c'è questa, l'ho già detto, la roba di questo uso della sessualità come ai fini di acquisizione di potere, prestigio sociale, guadagno economico, eccetera, dilagante. E appunto questa antropologa dice che questo, comunque, questo meccanismo vale per dire anche all'interno delle università, anche nelle carriere universitarie, non è una cosa, cioè lei dice, non ci sono ambiti istituzionali di questo tipo più puliti. Chiaramente nelle organizzazioni come l'OMS, l'ONU, la cooperazione internazionale ci sono miliardi e quindi è all'ennesima potenza, ma anche in istituzioni così meno altisonanti, appunto patriarcato e capitale nella loro alleanza criminale agiscono in maniera profonda e continua, insomma. E ecco, e boh, che cosa altro? Sì, poi ribadisce, insomma, il discorso del sistema marcio all'interno e all'esterno, e poi appunto su questa roba del post-vittimismo e quindi di non considerare queste donne vittime. E lei dice, sì, queste donne che hanno poi denunciato in qualche modo volevano entrare dentro il sistema, perché avranno partecipato a delle selezioni, avranno chiesto di entrare dentro il programma, eccetera. Stavano cercando per sé, ma anche per le persone a loro vicine, insomma, partendo dalla loro condizione, una forma di emancipazione, entrando però dentro un sistema marcio. Ma abbiamo visto che è il sistema capitalista che chiede ai soggetti di compartecipare di questa marcescenza, di compartecipare del loro sfruttamento. Cioè il sistema capitalista che chiede una forma ti chiede di corromperti per emanciparti. Quindi lei dice, queste donne probabilmente sapevano che andavano incontro a un rischio, perché comunque non è che, come è sulla bocca di tutti sanno che in queste organizzazioni si praticano queste cose, e così anche la popolazione locale lo sa in qualche misura. Quindi lei dice, sì, probabilmente queste donne erano consapevoli, chi più chi meno, del rischio che correvano, ma hanno scelto di correre questo rischio per cercare di uscire da un presente che, insomma, da una situazione che sta stretta, no? Che sì, che è insostenibile. E allora lei dice, no, è interessante invece, sarebbe interessante, cioè interessante partire da queste vicende e anche da come si è reagito a queste vicende, cercando di creare un sistema di autodifesa, diciamo, da questa alleanza criminale di patriarcato e capitalismo, e cercando di unirsi in maniera trasversale, cioè praticamente di trovare delle alleanze nell'atto oppresso della storia, quindi assolutamente non, cioè praticamente non si può star dentro in queste, cioè lo dice poi una che, visto che è all'università, sì, non è, insomma, è dentro una struttura di questo genere qua, però ha rinunciato evidentemente a tutti questi programmi, alla partecipazione a questi programmi di questo tipo di organizzazioni internazionali, ma insomma non si può star dentro. E una volta che si è capito, se uno sta dentro è complice, è bon. A livello, parliamo appunto non di queste donne, naturalmente, se ho fatto confusione, non di queste donne che hanno denunciato, ma di tutto il sistema delle organizzazioni, dell'organizzazione dell'ONU e dell'OMS in cui loro sono rimaste invischiate. E concludo, andate ad ascoltare questa, l'intervista è di, sì, il confronto è di qualche giorno fa, comunque cercando su Blackout si trova facilmente ed è veramente interessante da ascoltare, molto sfaccettata. Questa Simona Tagliani ha scritto dei libri, io non ho letto nulla, non la conoscevo assolutamente, guarderò, andrò a vedere, a cercare. Comunque ha scritto dei libri prevalentemente sull'analisi delle migrazioni e soprattutto di migrazioni di donne e di tutte le violenze che le donne subiscono nel processo di migrazione, soprattutto lei si è focalizzata sui paesi dell'Africa. E no, mi ricollego, mi è venuto in mente rispetto all'intervento precedente a questo, dove si parlava appunto dei giardini della Vittoria, che mi ha colpito di tutta questa delle forme di ecologia esistenziale dei palestinesi, delle palestinesi, di tutta questa storia qua mi ha colpito che di 104 donne appunto che hanno denunciato gli stupri e che hanno, alle quali è stato proposto questo risarcimento. Ah sì, un'ultima cosa, non mi ricordo se l'ho detto, aberrante, ma tipica anche questa, tipica di questo tipo di organizzazioni, ma anche della cooperazione, non solo, non serve scomodare quella internazionale. Per avere questi luridi $250, queste donne avrebbero dovuto fare dei corsi professionali specificamente di pasticcere, perché l'ONU non può dare alle persone che assiste dei soldi in contanti, deve farglieli avere attraverso dei corsi di formazione che le aiutino ad avviare attività generatrici di reddito. Quindi una roba veramente orrenda, ma veramente abominevole e umiliante a livelli spaziali, ma anche per tornare a mettere in campo i soldi, perché i corsi di formazione servono a dare i soldi a quelli che li tengono, non a quelli che li seguono, e perché poi quelli che li seguono non troveranno un cazzo di, non riusciranno a produrre un cazzo di, a generare un cazzo di reddito per sé, ma dovranno mandare avanti il carrozzone. Ma comunque di queste donne, di queste insomma 104 donne alle quali è stato proposto questo abominio, 12 mi sembra hanno rifiutato, cioè non sono neanche andate a ritirare, non sono neanche preoccupate di andare a ritirare sti soldi, e una ha chiesto di avere della terra, cioè non i $250, ma di aver assegnato per sé un pezzo di terra, che mi ha colpito perché comunque è una roba un po' bizzarra, diciamo, rispetto a questo tipo di contesto, e comunque è una richiesta, perché lei ha detto insomma, io vorrei un pezzo, voglio un pezzo di terra, non voglio i soldi, voglio un pezzo di terra, perché così lo coltivo e mi mantengo, insomma, non devo dipendere, posso vivere su questo pezzo di terra. E questo, insomma, secondo me è una risposta, sì, più creativa appunto, e che dà un po' di, dà un'apertura, ecco, anche una, sì, un'apertura rispetto a questa cosa orrenda appunto dei risarcimenti. niente, questo. E finisco col dire che questo slogan appunto, patriarcato e capitale, alleanza criminale, è stato uno dei più, degli slogan più entusiasmanti e vitali, secondo me, del, dei cortei, insomma, che si sono svolti, uno anche a Udine, sabato scorso 25 novembre. Sì, un'ultima cosa prima di dirvi tutti i contatti, eccetera. E ricordo la proiezione domani sera, alle 20.30, presso lo spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine, di Fedaïn, Le Combat de Georges Abdallah. È un documentario che appunto parla della storia di Georges Ibrahim Abdallah. E nell'ambito di due serate, la prima si è svolta lo scorso venerdì a Trieste in solidarietà a questo combattente libanese, il quale sarà processato anche a Trieste il 5 dicembre per un fatto risalente al 1984, e ne abbiamo parlato a lungo lo scorso Zardins. Oh! Sulle note di questa band, le Anus Kings, praticamente siamo giunti al termine della trasmissione, che è Tardins Magnetics, e tra l'altro devo dire che durante gli ultimi interventi abbiamo ascoltato gli Angst TV, che è una band ligure da un loro 7 pollici uscito in circa una decina di anni fa. Bene, come ho detto, siamo giunti al termine di questa trasmissione, Tardins Magnetics, in onda ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e è una trasmissione condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ricordo come sempre i nostri contatti, se volete scriverci tramite ovviamente la rete, ovvero la mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure se volete scrivere intestate ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle settimane passate, le settimane scorse, potete andare a riascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi appuntamento al prossimo giovedì, salutiamo anche chi ci ascolta domani pomeriggio, venerdì alle ore 17 sulla web radio Radiazione, e quindi siamo al termine, ascoltiamo un ultimo pezzo, così di non so quanto ne ascolteremo, comunque l'altra band Mermaid, che comunque tutti questi ultimi due brani sono tratti da una compilation Riot Girl Carnival volume 1, ed è tutto insomma una compilation benefit per varie associazioni, varie persone, attivisti comunque nell'area statunitense di Los Angeles. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.